versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana per chi non ci ha ascoltato anche stamattina con Alessandro Milan e benvenuti e grazie per l'ascolto alla versione di Oscar alle 16.32 primi e 8 secondi qui dagli studi di Milano. Vi ricordo l'indirizzo, versione di Oscar @radio24.it per proporre temi di trasmissione o per autoinvitarvi con naturalmente il vostro numero di telefono per parlare di cose che tocchino il pubblico. Oggi è una giornata a quest'ora non è ancora ben definita dal punto di vista della gerarchia delle notizie economiche e finanziarie, perché come immagino molti di voi sappiano, ascoltatori di Radio 24, diciamo, il focus oggi pomeriggio e domani mattina, ma insomma già da questa sera si dovrebbe capire, è sull'Eurogruppo e l'Ecofin, il primo dopo la Brexit, ma in realtà sul tavolo c'è anche il tema delle proposte italiane, su cui c'è aperta la trattativa con la Commissione europea su ricapitalizzazione delle banche da parte dello Stato, deroghe al BRRD, cioè al bail-in, e anche su come definire i prezzi di cessione dei crediti deteriorati delle banche che ne hanno di più, a cominciare da Montepaschi, perché sarà proprio quel prezzo di cessione quanto più alto rispetto a quello di mercato che determinerà poi gli shortfall di capitale delle banche che se ne liberano in quel modo, e quindi si quantificano gli aumenti di capitale, a cominciare da quello del Montepaschi nelle prossime due settimane. Questo è il focus, io vi invio per questo a Focus Economia che segue la nostra trasmissione. Ma in questo giorno in cui la politica si avvita su cosa fare, su referendum e riforma elettorale futuro di qui a mesi, mi è venuto in mente di trattare un tema particolare. Sapete che il quadro del commercio mondiale è, per così dire, un po' incasinato, perché le stime del commercio mondiale sono al continuo ribasso e negli ultimi due anni oramai il commercio mondiale ha un andamento che non è più quello degli 7, 8, 10 anni precedenti, in cui era maggiore di quello del PIL mondiale. C'è un freno evidente alla crescita dei paesi un tempo emergente, che hanno quasi tutti gravi squilibri, tranne l'India. La Cina, sapete, ha diminuito il suo tasso di crescita. Si aggiunge a questo il casino di Brexit, e in tutto questo, quindi, sia per le nostre esportazioni sia per il trasferimento tecnologico eccetera eccetera, noi dobbiamo tenerci ben caro il nostro rapporto con gli Stati Uniti. Sto parlando proprio di rapporto bilaterale, di rapporto di export-import e dal punto di vista del capitale, del capitale umano. A maggior ragione perché, come avrete capito forse, una delle conseguenze di Brexit è a questo punto il fatto che il trattato transatlantico di libero commercio, il TTIP, in buona sostanza la Francia ha dato l'ultima spallata, non sarà approvato entro la fine della presidenza Obama. Oramai era chiaro, ma adesso è ufficiale, e quindi da questo punto di vista noi dobbiamo concentrarci un pochino sul coltivare i rapporti commerciali, tecnologici delle multinazionali loro qui e delle nostre tantissime imprese che esportano soprattutto in alcune filiere lì. Allora, come affrontare questo tema non solo con numeri dati? È il giorno giusto, mi sono detto, e ringrazio la segnalazione di un amico di Salerno che mi ha dato, Antoluca Cuoco, che mi ha segnalato scrivendo questa modalità, la modalità che vi presento oggi, perché è con noi il fondatore e l'animatore di una iniziativa che si incentra proprio sui rapporti tra gli italiani e gli Stati Uniti. Quando dico tra gli italiani e gli Stati Uniti, non intendo solo esclusivamente l'economia, il commercio, gli studi eccetera eccetera, intendo proprio innanzitutto un fondamento di rapporto umano tra gli italiani che stanno qui e la numerosissima comunità di italo-americani lì, su cui però poi si costruisce e propone di aprire strade. E tanto è vero che per chi volesse approfondire c'è anche un libro in italiano, editore Armando, che prende il titolo esattamente dal sito che voi potete trovare sia in lingua inglese che in italiano, quindi andate a consultarlo per capire quante iniziative, quanto ricche fa questa iniziativa che è stata fondata dal nostro ospite. E il titolo del libro, Armando editore, potete anche scaricarlo in forma di ebook, è lo stesso del sito, cioè We the Italians, ed è con noi appunto il fondatore che si chiama Umberto Mucci. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Oscar, grazie a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, questo libro contiene la storia, quindi incontrandoli uno per uno, di un elevato numero, sono 50 italo-americani o italiani che hanno operato e operano negli Stati Uniti con storie diverse. Ci sono diplomatici, ci sono chef, ci sono responsabili delle camere di commercio bilaterali, scienziati, ricercatori, il presidente del Ferrari Club negli Stati Uniti, avvocati, manager, artisti. Ma la domanda che mi faccio io è: come nasce questo tentativo di mettere insieme e di stringere i legami tra gli italiani e gli italoamericani? Beh, nasce dalla mia passione per gli Stati Uniti, che molto, molto semplicemente nasce dal fatto che gli americani salvarono mio padre durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma al di là di questo, io ho scoperto questa fantastica comunità di italoamericani, 20 milioni di persone innamorate dell'Italia, persone di successo, persone molto stimate negli Stati Uniti, che rappresentano in qualche modo questo paese che noi a volte bistrattiamo, ma che negli Stati Uniti viene adorato e viene molto ammirato. E ci sono questi 20 milioni di persone che qui in Italia sono molto poco rappresentate e invece possono dare tantissimo a questo paese, non solo in termini di soldi. No, non c'è dubbio. Ti posso fare una domanda? Tu hai l'impressione che questi anni di crisi italiane e gli anni più recenti, e del resto ai giornali internazionali, anche oggi ci siamo per le richieste di deroghe fuori dalle nostre banche, anche se raccontiamo che la colpa è degli altri, dei tedeschi, mi viene da sorridere, non mi riconosco in questa storia e non mi piace soprattutto questa immagine che l'Italia dà sempre di chiedere l'eccezione per sé dando la colpa agli altri. Ma la domanda è questa: nella tua esperienza, nei contatti con la comunità lì e nella percezione che gli americani hanno dell'immagine italiana, quanto profonda è stata la ferita di questi anni di crisi, che metteremo anni prima di recuperare il reddito pro capite e PIL pro capite, quelli del 2007? Lì ci percepiscono come un paese in ginocchio, in difficoltà, ma insomma niente di che? Come ci vedono? Sicuramente noi ci siamo fatti molto male in questi anni, come tu giustamente purtroppo dici da tanto tempo, e non solo tu. Loro ci conoscono meglio di quanto si pensi. C'è lo stereotipo dell'italoamericano che è rimasto all'Italia dagli anni 50, ce ne sarà anche qualcuno che è così, ma la stragrande maggioranza conoscono questo paese, si informano, quindi sicuramente sono un po' scettici sul fatto che questo paese non cresce, cresce male, insomma non decolla come dovrebbe. Ciò nonostante, da lì vedono alcune cose positive che magari noi non riusciamo a vedere, perché come sempre da lontano si riesce ad avere a volte uno sguardo un pochettino più diverso rispetto a chi è coinvolto. C'è anche in questo sguardo naturalmente l'amore, la passione per questo paese, che un pochettino coinvolge e sfuma e annibbia la lucidità dell'analisi al 100%, come dire, corretta e analitica. Però devo dire che a parte questo c'è un messaggio eccezionale, c'è un messaggio di speranza, di amore, di ammirazione, non solo per questo paese, per le cose meravigliose che ci sono da decenni, da cent'anni, da millenni, ma anche per esempio per l'innovazione che viene da qui, per le cose che si fanno al giorno d'oggi. Quindi insomma vedono i problemi che abbiamo, magari noi li vediamo, li soffriamo un po' di più, però nonostante questo sarebbe molto utile riuscire a capire quello che viene da lì, perché vedi, ti dico questo, loro hanno lo stesso nostro DNA, possono non avere il nostro passaporto, perché è complicatissimo prendere il passaporto italiano, ma no, hanno il nostro sangue, hanno il nostro DNA. Io mi sono sentito dire da uno dei 50 intervistati, che è l'executive director dei Sons of Italy, che è l'associazione che racchiude rappresenta gli italoamericani, la più antica, del 1905. Io mi sono sentito dire da lui, che si chiama Philip Piccigallo: io non ho mai incontrato un italoamericano pigro. E in effetti negli Stati Uniti la comunità italoamericana, gli italiani, sono visti come il gruppo etnico che lavora di più. Ora, quando io lo dico in Italia, la gente mi guarda male, dice: ma noi invece sì che siamo pigri, noi non lavoriamo tanto, noi produciamo di meno. Ecco, il DNA è lo stesso. Quello che succede è che lì negli Stati Uniti gli italoamericani, cioè gli italiani, incontrano la meritocrazia, incontrano il business. Però la domanda che ti faccio è: non è un po' la storia di tutte le latecomer? Cioè, in realtà noi lì per decenni, dagli ultimi vent'anni del 1800 e poi ancora prima della guerra, la prima guerra mondiale, dopo la prima guerra mondiale e ancora fino agli anni 50 e 60, i milioni di italiani che sono andati negli Stati Uniti, quando arrivavano a Ellis Island erano un pochino, adesso qualcuno sobbalzerà, però io sto parlando in questo caso, per esempio, di pezzi della famiglia di mia madre. Ecco, cioè, è una storia che conosco, perché da ragazzino appunto andavo lì ospite loro e mi riconosco esattamente in quello che dici. Ma perché? Perché arrivavano dovendo risalire faticosissimamente dal basso la piramide sociale, lavorando esattamente come noi chiediamo agli immigrati di fare cose che gli italiani non vogliono fare qua. Quindi è una storia che dipende un po' da quello, o no? Sicuramente c'era una necessità, se tu consideri che allargando il campo, nei primi 15 anni del XX secolo, i soldi che venivano dalle rimesse degli italiani, esatto, in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, i soldi che venivano dalle rimesse degli italiani in tutto il mondo nei primi 15 anni del secolo furono maggiori dei soldi che venivano dalla tassazione di quelli che erano, esatto, rimasti qui. Ora, la battuta è facile, la tassazione era molto più bassa di adesso. Sì, certo. Però al di là di questo, questi vivevano in maniera veramente molto complicata, facevano due o tre lavori, mandavano a casa i soldi perché erano convinti di tornare indietro, avevano qui ancora le famiglie, quindi sì, sicuramente loro si trovavano in una situazione per cui dovevano per forza fare così. Però anche oggi, ancora oggi, questo DNA si è mantenuto, per così dire. Ma sì, perché noi siamo, rispetto agli americani, facciamo più cose insieme, siamo multitasking, siamo più stravaganti, siamo più geniali. Noi siamo quelli ai quali si rivolgono per risolvere un problema che non sanno come risolvere quando hanno finito le procedure, i protocolli, i manuali e tutto quanto. Arriviamo noi e glielo risolviamo il problema. Il problema però è che, come diceva negli anni 50 un grande filosofo non romano, la linea più dritta fra due punti in Italia è l'arzigogolo. Sì. Quando io lo spiego negli Stati Uniti non c'è nemmeno la parola per dire arzigogolo. Sì, devo dire che io un po' preferisco loro, a dire la verità, ma questo è un problema mio. Ah, senti, anch'io, sì, sì. Ma ai loro occhi però Marchionne non è un italiano, è un canadese svizzero. Beh, però loro lo celebrano molto. Io sono stato alla NIAF, che è l'altra grande federazione di italoamericani, lo scorso ottobre, e loro lo hanno premiato e devo dire che erano veramente molto orgogliosi di lui, che è arrivato col suo maglioncino, e però insomma devo dire che lui è un grande manager che loro amano. Insomma, poi sai, a volte la differenza fra Stati Uniti e Canada è un po' sfumata, a volte. Questo sì, anche se con questo Premier, io devo dire, io ho una grandissima stima del Canada, perché pochi lo sanno in Italia, ma è un paese che è riuscito con una convergenza politica tra partiti opposti, quando era un sistema nettamente bipolare, a fare qualcosa di simile a quello che la Germania ha fatto dal 2001 e poi in Europa, quando era il grande malato d'Europa. Cioè hanno avviato un processo pluriennale di grandissima riforma del loro welfare, che era un welfare troppo generoso, e di interventi molto decisi sulla spesa pubblica e sulle tasse, e infatti si è visto, perché negli anni della crisi è andato bene, proprio perché alle spalle aveva questa grandissima forza convergente nel suo sistema politico. Un sistema politico complicato, pochi lo conoscono, un sistema federale e così via. Questo nuovo premier giovane, Trudeau, secondo me batte sui media internazionali ormai Obama per un multiplo Obama, e questa è la domanda che ti faccio. Sta un po', devo dire, un po' tristemente finendo i suoi 8 anni, un po' di troppe promesse non mantenute, troppo caos nella politica estera, grande anche, devo dire, secondo me, disinteresse verso l'Italia. Cioè capisco che dopo finita la guerra fredda noi non siamo più la frontiera di sicurezza, però non mi è mai sembrato che Obama, al di là della circostanza, avesse per il nostro paese una particolare attenzione, o no? Sì, certo. Tutto questo sicuramente io la penso come te, sai, come tutte le cose che sollevano delle aspettative gigantesche, poi dopo è difficile che portino a compimento quello che si è promesso, a prescindere dalla capacità poi del leader. Secondo me effettivamente, guarda, io sono stato a fare un tour per la presentazione del libro negli Stati Uniti a febbraio-marzo, ho fatto 15 città e ho parlato con molte persone, e tutti quelli che mi dicevano di votare Trump, e erano molti di più di quanti io non pensassi, alla mia domanda, ma da 1 a 10 quanto conta il tuo giudizio sulla presidenza Obama, sul tuo volere votare Trump, dicevano tutti 10. Vabbè, adesso vedremo come va a finire. Però adesso, dopo il minuto di informazione sul traffico, io ti chiedo di entrare un po' più nel concreto. Cioè, se una cosa mi ha sempre stupito, vista la forza dell'Italia negli Stati Uniti, la forza dovuta ai suoi figli là, nel senso che insomma, chiunque sia andato e girato un po' l'America sa che è così. La cosa che mi ha sempre colpito è un po' la bassissima capacità dell'Italia di saper mettere a frutto questo. Parto da chi ha avuto successo per chiedere di fare qualcosa di equivalente a quello che ha fatto Tosta al Colosseo. Pochissimi casi. Sono stati giapponesi a fare il grande finanziamento del recupero della Cappella Sistina in Vaticano, per così dire. Poca roba noi facciamo. Cioè, sì, il grande regista è intervenuto in Basilicata, però voglio dire, non c'è una grande storia di questo tipo. Pochissime collaborazioni anche con le università della Ivy League americane, tranne pochissime università italiane, cosa per me abbastanza incomprensibile. Tutto sommato le filiere d'impresa sì, si danno da fare, ma è come se ci fosse sempre un oceano di mezzo. Per me non ci sono mai questi 20 milioni che dovrebbero essere un moltiplicatore di forza. Ecco, ricominciamo un po' di cose concrete su questo. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:49 primi 20 secondi, e con noi Umberto Mucci, il fondatore e amministratore delegato di questa iniziativa We the Italians, che è anche il titolo di un libro che potete trovare in versione italiana per Armando Editore, con decine e decine di italiani italoamericani di successo, italiani che operano negli Stati Uniti, per vedere affettati un po' tutti diversi pezzi di questo rapporto, che è un rapporto che noi diamo per scontato, ma secondo me dovrebbe produrre molto più frutti dal punto di vista economico e del capitale umano. Perché abbiamo un po', a me sembra che non ci sia questo moltiplicatore, secondo te perché c'è questa bassa consapevolezza di questo grande elemento di forza che noi trascuriamo lì? Innanzitutto, a mio avviso, noi purtroppo qui in Italia siamo concentrati sul nostro ombelico e questo è un grave errore. Lì c'è una comunità invece di persone straordinaria che fanno e hanno fatto molto per noi. Adesso io brevissimamente ti ricordo che nel 1948, quando si trattava di scegliere se stare col patto atlantico o col patto di Varsavia, gli italoamericani scrissero a tutti i loro parenti in Italia dicendo: scegliete gli Stati Uniti, scegliete la parte del però, patto, ripeto, atlantico. Dopo la guerra fredda è un po' cambiata questa cosa. Cioè, ripeto, io ho un po' la sensazione che non vedo Milano, 8 grandissime università, nell'eccellenza dei ranking internazionali, in molte discipline, life science e così via, eccetera, eccetera. Se vai a grattare i rapporti stabili con le corrispettive nelle diverse specializzazioni con le università americane, sono poche, inferiori a quello che l'eccellenza del ranking che c'è in Italia secondo me giustificherebbe, e nel sistema universitario italiano nel suo complesso lasciamo perdere, poi, perché si tende quasi a zero. Perché? Ma ti dico, in parte probabilmente da parte degli italoamericani, come diciamo qui a Roma, avranno preso qualche sola, nel senso che sarà accaduto che qualcuno ha promesso qualcosa e poi non è stato fatto. Io per esempio, che rappresento qui in Italia l'Italian American Museum di Manhattan, nella Little Italy abbiamo portato $110,000, abbiamo ristrutturato una Madonna del 1400 distrutta dopo il terremoto dell'Aquila, e ci sono state molte altre iniziative. Ultimamente, proprio lo scorso mese, la NIEF ha donato dei soldi per restaurare la chiesa del Santissimo Sudario a Torino, dove è una copia della Sindone, una copia del Sacro Telo andrà a Washington. Si può fare di più. Devo dire che l'Italia è il primo paese non anglofono per incoming di studenti americani. Ogni anno ne vengono 35.000 e fa piacere dire che nel libro c'è un'intervista alla presidente dell'associazione che gestisce la stragrande maggioranza di questi programmi di incoming. Lei si chiama Portia Previs e lei ha scritto un libro sul fatto di portare gli studenti americani qui in Italia, che si chiama Educating in Paradise, che è una cosa che a me piace tantissimo, perché a me piacerebbe portarla in giro per le scuole e dire ai ragazzi italiani che si sentono sfigati perché sono nati in Italia: guardate che gli studenti americani ritengono di essere educati in paradiso se vengono a studiare un semestre. Quindi insomma, ci sono belle cose da dire. Certo, bisogna, una delle cose che We the Italians vuole fare è questo, cioè vuole cercare di rappresentarli e di aiutarli ad aiutare l'Italia. Guarda, loro sono prontissimi a farlo, però ovviamente sai, poi la burocrazia, i problemi non aiutano per niente, insomma. Certe cose loro non le capiscono, le capiamo noi che siamo abituati ad essere assoggettati a certe cose strane dello Stato. Ho visto che nelle interviste eccetera c'è anche l'autore di un libro, Anthony Riccio, che è autore del libro Farm Factories and Families, Italian American Women of Connecticut. Sì. Che Anthony è un carissimo amico, una persona innamorata di questo paese, è in Connecticut dove c'è quasi il 20% di cittadini che hanno origine italiana. Sì, ha scritto questo libro che racconta, perché poi le storie delle persone che ormai hanno una certa età non rimangono se non vengono trascritte, esatto, o vengono comunque testimoniate. Perché noi abbiamo una storiografia dell'emigrazione che poi si ferma, per così dire, non è anche la storiografia delle generazioni successive. Io adesso anche qui, io mi porto dietro un pezzo di vita, io vedo che le mie cugine, i miei cugini ormai hanno un rapporto, mentre è chiaro, genitori e nonni, che sono quelli dell'immigrazione del secolo scorso, le due generazioni, hanno un rapporto fortissimo. Loro, insomma, voglio dire, hanno vissuto crescendo un rapporto di crescente stranità, come dire, cioè hanno più che altro visto che l'Italia, quando giravano l'Italia, tendevano a fregarle, perché noi abbiamo questa pessima cosa sui turisti stranieri, lasciamelo dire, è un po' hit and run, cioè tanto si sa che non è detto che tornino e quindi tentiamo di fregarli. Cosa che mi è costata parecchie discussioni con loro per tentare di spiegare, dire non è vero e così via, e ci rimanevano molto male, perché amavano tantissimo il nostro paese. Ma guarda, nella storia generalista, come dire, dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti, c'è una prima generazione che va lì e si fa veramente un mazzo tanto, chiedo esatto. Scusa per... No, i figli che nascono lì tendono ad essere americanizzati proprio perché debbono integrarsi, quindi i figli che nascono e lì... E anche la forza del grande modello americano, finché è funzionato meglio di adesso, ma era quello. Certo. Poi dopo gli anni 50 c'è un ritorno, c'è una riscoperta, e negli anni 60 e negli anni 70 c'è un revival dell'italianità. Adesso l'italianità è cool, però sai, è difficile, anche perché le istituzioni, che devo dire, fanno un buon lavoro a mio avviso lì, perché mandano dei consoli molto in gamba, gli ambasciatori anche, però hanno a che fare con un mare di persone, sì, cioè esatto. 20 milioni di persone, è impossibile gestirli. Ecco, allora concludiamo così, ci vorrebbero un po' più di risorse, il mondo privato dovrebbe mettere più risorse per questo, perché c'è un moltiplicatore siccome molto trascurato, ed è per questo che io ringrazio, anche se alcuni ascoltatori dicono ma che cavolo di trasmissione è una trasmissione su un moltiplicatore che noi trascuriamo. Io credo che Umberto Mucci, per il lavoro che fa con We the Italians, sia un moltiplicatore in piccolo, autonomo, privato, e per questo grazie per quello che fa. A domani mattina alle 8:15 con me Alessandro Milà, attenti noi due.